πάντω στα δίμα του σουβανίρ d'Italie. Κάρτια φα από τρουβάδιμα του σουβανίρ d'Italie. Ma perché non mi fa che io dormi, solo tu mi può dire se ne chiudo così e me lascia partire. Souvenir, souvenir d'Italia. Ma perché non mi fa che io dormi, solo tu mi può dire se ne chiudo così e me lascia partire. Souvenir,